loro reportage. Flussi migratori. La nuova guardia di frontiera europea. Di Alessandra Schepisi. Please do not assume that this Border and Coast Guard Agency is a silver bullet and solution for everything. This is just one piece in the building of more secure environment around European Union and within the European Union. Così alla plenaria di Strasburgo, Arthur Pabriks, relatore del nuovo regolamento che sancisce la nascita della Guardia Costiera di Frontiera Europea, lo strumento che dovrebbe entrare in vigore dopo l'estate e rafforzare l'attuale capacità di Frontex, l'agenzia europea responsabile per la gestione e il controllo delle frontiere esterne dell'Europa. Non pensate che questo sia un proiettile d'argento o una bacchetta magica per risolvere ogni cosa, dice Pabriks, ma solo un mattone per costruire un ambiente più sicuro attorno all'Europa e al suo interno. Ma di cosa stiamo parlando? Di 1.500 uomini, agenti, poliziotti provenienti da vari paesi che andranno a confluire in questo corpo europeo e che potranno intervenire in modo rapido a difesa delle frontiere esterne quando un paese ne avrà bisogno, ad esempio in caso di flusso incontrollato di migranti. Per alcuni si tratta di un passo in avanti verso una politica europea condivisa sull'immigrazione, mentre per altri l'agenzia è ancora troppo dipendente dai singoli paesi, che di fatto rimangono i decisori ultimi sulle azioni da intraprendere. Per le organizzazioni non governative, infine, uno strumento considerato troppo concentrato sul controllo dei confini, poco sul salvataggio delle vite dei migranti. Così l'europarlamentare del PD, Cécile Kyenge, una delle maggiori sostenitrici di questa misura. Bisogna dire che questa nuova guardia, cioè la guardia di frontiera e costiera, è stata istituita proprio per allo scopo di gestire meglio i flussi migratori, ma anche altre minacce potenziali come crimini transfrontalieri, che poi dovrà comunque intervenire in collaborazione con altre agenzie, e poi di garantire anche un livello elevato di sicurezza all'interno dell'Unione. Questa un po' anche per garantire lo spazio Schengen, quindi salvaguardando al contempo la libera circolazione delle persone al suo interno. Tutto questo, Io dico, il valore positivo è che finalmente si riconoscono le frontiere esterne di ogni paese, di ogni Stato membro, come frontiere dell'Unione Europea. Quindi sarà una gestione integrata, responsabile delle frontiere dell'Unione. E questa, a mio avviso, significa più Europa, più solidarietà e più equa ripartizione delle responsabilità. Tra i principali oppositori invece l'europarlamentare 5 Stelle Ignazio Corrao, relatore ombra in commissione. Noi abbiamo sempre detto che prima di parlare di una guardia costiera o comunque una guardia di frontiera comune c'erano delle altre priorità da risolvere, come per esempio il meccanismo di redistribuzione obbligatoria e quindi il superamento del regolamento di Dublino 3. Senza questo presupposto, di fatto la guardia costiera e la guardia di frontiera rischia di creare un tappo nei paesi di confine e trasformarli in degli enormi campi profughi. Questo è il concetto di base. Di fatto, con un meccanismo di redistribuzione che non esiste, tutti i migranti che arrivano sulle coste italiane saranno aiutati, controllati da questa agenzia per rimanere in Italia, fare domande d'asilo in Italia e rimanerci sulla base del regolamento di Dublino 3. Quindi a noi non credo che ci aiuti in qualche modo. Però lei dice anche che è un regalo all'industria delle armi. Esatto, c'è anche questo. Questo è un rapporto che abbiamo ricevuto dalle organizzazioni non governative, ma è chiaro, la fretta lascia intendere che comunque bisogna andare comunque a fare questo tipo di intervento, che è un intervento che comunque comporta una grossa spesa nei meccanismi appunto di sicurezza delle frontiere, della guardia costiera, che comunque è in mano alle industrie leader nel settore della difesa ma anche della guerra, che sono le stesse che comunque causano generalmente i problemi che ci proponiamo di risolvere. Insomma, uno strumento che forse non inciderà più di tanto sulla gestione della crisi migratoria, un primo segnale comunque verso quella condivisione di responsabilità che fa tanta fatica a farsi strada in Europa, eppure ce ne sarebbe davvero bisogno visto le tante sfide sulla crisi migratoria che attendono l'Europa in autunno. Matteo Villa, ricercatore dell'ISPI. Arriva la nuova guardia di frontiera e, come promessa, direi intanto guardiamo quello che sta facendo l'Europa dal punto di vista della gestione dei flussi migratori. È un anno che cerchiamo e dibattiamo su come ripartire i richiedenti asilo in Europa dopo le proposte della Commissione che sono andate praticamente inapplicate dagli Stati per un anno, no? Sapete che dovevamo ricollocare 160.000 richiedenti asilo da Italia e Grecia negli altri paesi come dimostrazione di solidarietà. Sono stati ricollocati in 2000. Allora, notando il fallimento, si è arrivati a un approccio un pochino più hard, no? Abbiamo cercato di iniziare a pensare a come gestire le frontiere esterne e quindi si è arrivato a questo accordo. È un accordo che non cambia moltissimo perché, come sempre, si annacquano un po' le proposte, no? Quindi la Commissione aveva proposto di istituire una guardia di costiera che potesse intervenire anche senza che i singoli paesi, no, sottoposti a un forte flusso migratorio inatteso, che non chiedessero un intervento europeo, comunque dovessero un po' subirlo, in modo che si riuscisse a gestire la frontiera comune. Di fatto questo non avverrà, perché la nuova guardia costiera comunque avrà personale illimitato, no? 1500 persone che possono essere chiamate dai singoli stati membri. Ecco, sembrano comunque un po' pochine queste 1500. Sì, se consideriamo che la guardia costiera italiana è composta da 11.000 persone, che è vero che non lavorano tutte sulla frontiera sud, insomma, però comunque sono 11.000, non sono tantissime. È più un gesto simbolico e politico, che però, di nuovo, ripeto, è stato un po' annacquato nel momento in cui alla fine si vede che è vero che la guerra costiera e la Commissione possono chiedere di intervenire in un paese con un'emergenza, ma di fatto devono poi fare un piano operativo insieme a quel paese, e se il paese non lo fa non possono mandare nessun personale. E quindi, insomma, si ritorna all'inizio. La Commissione voleva dare un segnale che le frontiere esterne sono più presidiate, in modo che poi non ci fosse una grande giustificazione per i paesi di Schengen, no? All'interno dell'area di libera circolazione, di chiudere le frontiere interne. Questo non sta avvenendo, e quindi è possibile che da settembre si ripropongano le stesse situazioni, con la Germania che dice dobbiamo chiudere, l'Austria altrettanto, eccetera eccetera. Lei come vede, adesso c'è la presidenza della Slovacchia, questo paese coordinerà i più importanti lavori, i dossier europei, prima di tutto una delle sfide maggiori è appunto la crisi migratoria. Conosciamo quali sono le posizioni del premier slovacco e del suo partito, piuttosto intolleranti, insomma, sulla questione dei migranti. Come vede questo semestre che si apre? Non so se è una crisi che si apre, nel senso che, essendo una crisi che continua, alla fine credo che la presidenza slovacca, come tutte le presidenze di turno, alla fine non avrà grandissima influenza sul tema. Detto questo, è di nuovo un segnale preoccupante, perché ormai è un anno e mezzo che parliamo di come far fronte all'emergenza migratoria. La Slovacchia, sappiamo benissimo che ha delle idee diverse, il suo primo ministro è stato uno di quelli che, insieme a Viktor Orban ungherese, hanno deciso di fare un ricorso alla Corte di Giustizia Europea contro i ricollocamenti, che comunque sono già falliti, no? Di nuovo Orban in Ungheria farà un referendum, che di nuovo è un segnale politico problematico, fa vedere una Europa spaccata. E non dimentichiamoci però che anche nell'est c'è un'Europa spaccata al suo interno, no? L'Austria va alle presidenziali e cercheremo di capire se le destre emergeranno vincitrici, oppure se continuerà a esserci questa spaccatura nettissima, proprio 50,1% tra destre e moderati. E all'interno della stessa Slovacchia, ieri il presidente slovacco, quindi non Robert Fico ma il presidente, ha detto: non sono d'accordo con Fico, secondo me dobbiamo iniziare a includere i migranti. Quindi, insomma, un'Europa molto spaccata al suo interno. Invece, per quanto riguarda la riforma di Dublino, con anche la proposta che c'è stata da parte della Commissione europea, qual è lo stato dell'arte? Lei come lo giudica? Lo stato dell'arte, mi spiace essere sempre pessimista, però devo esserlo, perché se ricordate 4-5 anni fa, nel 2011, alla prima nostra emergenza migranti, cioè quando in Italia arrivavano i tunisini che scappavano dalla primavera araba in Tunisia, di fatto Italia e Francia, dopo aver avuto un piccolo scontro tra loro, avevano detto: no, dobbiamo riformare il sistema di Dublino. Avevano fatto la loro proposta, che prevedeva praticamente la stessa cosa che ha detto la Commissione l'anno scorso, cioè ricollochiamo i migranti in situazione di emergenza, ed è stata disattesa, è stata assolutamente ignorata. Quello che sta succedendo in questo momento, la Commissione le sta provando tutte, perché una volta che le quote obbligatorie non sono state per ripartire i migranti richiedenti asilo all'interno dei paesi dell'Unione Europea non sono state accettate, adesso sta dicendo: in situazioni di emergenza in cui arriva il 150% dei migranti previsti in una situazione normale, e anche qui tutti stanno lì a fare i conti, le quote saranno obbligatorie ma si dovranno pagare multe, ovviamente nessun paese vuole, è d'accordo, e quindi la vedo un po' difficile, soprattutto in un momento in cui i flussi con l'accordo UE-Turchia si sono abbassati drasticamente, il problema è tornato soltanto in direzione sud, verso l'Italia. Insomma, è difficile concludere con una nota di ottimismo. Sì, proviamoci. Allora, in realtà l'Italia su questo fronte si sta muovendo bene, a mio parere. Ricorderete forse la proposta Immigration Compact, che è stata molto criticata perché si tratta di andare a cercare di trattare con gli stati africani perché loro gestiscano i flussi migratori. Però di fatto è una cosa che si faceva già, e la si faceva in maniera molto molto oscura, un po' problematica prima. Se si riesce a includere in un framework questa cosa, se riesce a dare una struttura e si indirizzano gli aiuti, in cambio ovviamente del controllo dei flussi, verso lo sviluppo di quei paesi, può essere un segnale molto positivo e può essere un momento in cui l'UE ritrova la voce che ha perso a causa della cacofonia tra gli stati nazionali. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Euro Reportage. In collaborazione con Euronet Plus.